Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Tanti auguri di Buon Natale per cominciare e grazie per esservi sintonizzati anche oggi con noi. Non ve ne pentirete, vi promettiamo un bel regalo. Questo pomeriggio inauguriamo infatti la prima di 3 puntate speciali che coincideranno con le festività natalizie e che ci accompagneranno fino all'8 gennaio. Nel corso delle prossime 2 settimane vi faremo conoscere molti nostri giovani professionisti di talento al lavoro all'estero, mentre oggi a far da sfondo a questa mezz'ora ci sarà tanta buona musica, musica di chi ha lasciato l'Italia decidendo però di tornarci a suon di note, cavalcando, pensate un po', una bicicletta, per far sentire anche in Italia la voce degli outsider, quelli senza spintarelle o raccomandazioni, per intenderci. C'è una indifferenza verso gli outsider, verso chi propone qualcosa. Il problema è che questa cosa non viene nemmeno ascoltata, io ho la sensazione. Questa è la cosa più triste, questo è tristissimo perché denota una chiusura enorme. Giacomo Lariccia, 35 anni, è un cantautore e musicista, lavora a Bruxelles, in Belgio, ma più in generale per l'Europa. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Approvata questa settimana in via definitiva e al Senato la legge contro esodo che faciliterà il rientro in Italia di giovani professionisti under 40 espatriati, un tassello importante per riconnettere i migliori talenti col paese. Guglielmo Vaccaro, deputato del PD e ideatore della neonata legge, ce ne spiega il contenuto. Potranno chiedere degli sgravi fiscali importanti, fino a 200.000 euro di minori imposte, come a dire che fino a 500.000 euro circa di introiti non si pagheranno tasse. Potranno fare i ragazzi che sono andati via e che stanno all'estero da oltre 2 anni, ma varrà ovviamente anche per quelli che sono in partenza e che, maturati 2 anni di permanenza all'estero, decideranno di ritornare nel nostro straordinario paese. Questa approvazione rappresenta solo una prima tappa, avete altri disegni di legge in cantiere? Questo che noi chiamiamo incentivo per il rientro dei giovani lavoratori all'estero è solo il primo di 4 proposte di legge che sono già in marcia. Una riguarda l'attrazione di talenti dall'estero, una terza riguarda la promozione di attività di soggiorno e di studio all'estero per i ragazzi che sono ancora all'università e un quarto che consente a chi rimane all'estero di sostenere investimenti con delle agevolazioni fiscali in Italia. L'Italia è una terra di migranti, lo afferma il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, secondo cui l'emigrazione italiana si è notevolmente ridotta ma non è mai cessata e di recente ha registrato una ripresa. Per Napolitano i nuovi emigrati sono spesso brillanti laureati e ricercatori, tecnici e imprenditori, personale altamente qualificato. Questa emorragia di talenti rappresenta una perdita per il paese, un segnale di debolezza del nostro sistema scientifico e produttivo, della sua capacità di mettere a frutto risorse umane, di selezionare in base al merito. Spero, conclude il capo dello Stato, che l'Italia possa dimostrarsi capace di invogliarli a rientrare. Il 21,1% dei giovani italiani, oltre 2 milioni di under 30, non lavora né studia, lo afferma il primo rapporto sulla coesione sociale 2010. Per l'Istat la disoccupazione giovanile si attesta a quota 24,7%. E in questa puntata di Natale facciamo il punto sulle fughe di cervelli anche dagli altri paesi. Negli ultimi mesi ne hanno parlato sull'onda della crisi diversi giornali internazionali. Eccovi una breve panoramica. Partiamo dall'Irlanda, dove ogni mese 1250 studenti lasciano l'ex Tigre Celtica. In Irlanda un laureato su 5 cerca lavoro all'estero. Intanto un numero sempre maggiore di ricercatori di grosso calibro si prepara ad abbandonare la Gran Bretagna, lo denuncia il Guardian. Problemi anche in Francia, secondo l'Institute Montaigne, il numero di ricercatori transalpini trasferitisi negli Stati Uniti negli ultimi 30 anni è stato in costante crescita, la percentuale sul totale resta limitata ma si concentra in settori strategici. Peggio fa la Grecia, la stragrande maggioranza dei neolaureati e laureandi ellenici, 7 su 10, è pronta a lasciare il paese per cercare lavoro all'estero, lo afferma il quotidiano Tovima. E problemi pure in Repubblica Ceca, dove a soffrire sono soprattutto i medici, il loro esodo potrebbe causare il collasso del sistema sanitario ceco. Ma c'è anche chi i cervelli cerca di trattenerli o attirarli. Google sta sborsando milioni di dollari per impedire che i suoi migliori ingegneri se ne vadano con la destinazione Facebook. E la Svizzera sembra, al contrario, soffrire di penuria di professionisti. Secondo un'indagine Manpower, il 35% dei datori di lavoro elvetici farebbe fatica a reclutare personale qualificato. Ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un economista alla Banca Centrale Europea, sede di Francoforte, lavorerà nella Risk Management Division, scadenza per il CV 31 dicembre, info su ecb.int. un Senior Policy Officer all'Open Society Institute di Budapest, Ungheria, lavorerà alle iniziative collegate all'inclusione dei Rom, richiesta la laurea in scienze sociali, scadenza per i CV 2 gennaio, email a applications@admingroup.hu. Infine, un ingegnere per le operazioni dei veicoli spaziali all'Agenzia Spaziale Europea, sede di Darmstadt in Germania, richiesta la laurea in ingegneria, scadenza per i CV 17 gennaio, info su esa.int. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta nella capitale europea per eccellenza, Bruxelles. Non vi parleremo però di politica, oggi sarà una storia tutta in musica. Nome: Giacomo. Cognome: Lariccia. Età: 35. Città di origine: Roma. Studi: Scienze della comunicazione e conservatorio a Bruxelles. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? A Bruxelles. Perché? Per studiare musica. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono chitarrista e cantante. Dove? In Europa. Tornerai? Dipende dalle condizioni. Io verrò sulle ali di una bici, io ti raggiungerò per essere felici. Edizione speciale natalizia di Giovani Talenti, nella quale vi faremo ascoltare, oltre al consueto racconto, anche un po' di buona musica. Scenderemo pedalando, come canta Giacomo, dal Belgio verso l'Italia. Lo faremo accompagnati da musica composta e cantata da Giacomo Lariccia, il protagonista della storia di questa settimana. Buon pomeriggio, Giacomo. Buon pomeriggio e buon Natale. Giacomo, nella tua email a Giovani Talenti hai condito il racconto della tua storia intervallato dalle tue esperienze professionali con un'unica costante domanda: ma quando mai in Italia? Un leitmotiv che faceva scaturire, lo diciamo anche, una sensazione di incredulità, il che fa sorgere un'altra domanda: è il paese delle possibilità negate il nostro, soprattutto per i giovani, Giacomo? La mia esperienza è che l'Italia è il paese dei diritti negati, delle ingiustizie e delle difficoltà nelle cose più semplici. Siamo 60 milioni con risorse storiche, artistiche, umane ineguagliabili, ma tutto è complesso. Tutto è complicato. Tutto è complicato. Iniziamo parlando della tua storia. Tu frequenti il liceo linguistico, dopodiché ti iscrivi a Scienze della Comunicazione, coltivi però fin da ragazzo la passione per la musica. Passione vera, autentica, raccontaci meglio. Ho studiato musica dai primi anni dell'adolescenza e ho continuato a farlo poi anche durante gli anni dell'università in maniera un po' più discontinua, e avevo una passione per la musica nera, per la musica afroamericana, condita anche da tanti cantautori italiani. Ti iscrivi a Scienze della Comunicazione non riuscendo a importi sulle paure dei tuoi genitori, perché in Italia la carriera artistica, diciamolo pure, fa paura, soprattutto ai padri e alle madri. Perché secondo te si è persa la voglia di rischiare? Era paura dell'ignoto, di qualcosa che non si conosceva, perché paradossalmente ancora nel 2000 il jazz era considerato un'arte sconosciuta, paurosa, che non aveva un curriculum di studi ufficiale, il diploma che è così tanto importante in Italia non esisteva e quindi spaventava. Quale bilancio dai di quell'esperienza universitaria? Un ottimo bilancio. E nel 2000, all'alba del terzo millennio, ti laurei con l'obiettivo dichiarato di scappare dall'Italia. Alla base di tutto ciò c'era un vuoto. Cosa ti mancava? Cosa ti faceva stare così male? Io credo che era un allontanamento dalla mia vera natura, perché studiando ad un certo punto ho lasciato lo studio della musica e questo mi ha portato un vuoto pauroso dentro. Freddo che entra nelle ossa e morde il desiderio di cambiare ghiaccio. Freddo è il titolo questo del secondo brano di Giacomo Lariccia. Il freddo dell'inverno belga, paese dove ti porta la tua fuga post laurea. Tu scegli il Belgio scartando Stati Uniti e Francia, una scelta in un certo senso, diciamolo pure, anticonformista. Cosa ti spinge a scegliere Bruxelles? Quali sono questi plus della capitale europea? Quando sono partito, Bruxelles aveva diverse caratteristiche positive. La prima era di avere un conservatorio pubblico, la seconda era di avere degli affitti bassi, quindi potevo permettermi con un lavoro da studente. E poi conoscevo già la città, avevo dei contatti all'interno della città, avevo viaggiato durante gli anni dell'università, quindi non mi era sconosciuto. E l'ambiente belga, che forse in Italia conosciamo ancora un po' poco, al di là dei soliti cliché, si rivela musicalmente una sorpresa in positivo. Ti colpisce soprattutto l'apertura a livello musicale. Perché? Quello che ho notato qui a Bruxelles è che c'è tanta attenzione per tutto ciò che è nuovo e originale, cosa che non ho poi avuto la possibilità di ritrovare in Italia. A Bruxelles ti iscrivi al conservatorio e come procede a quel punto la tua formazione musicale, in breve ovviamente? È un percorso classico accademico di studi, di concentrazione sullo strumento, materie teoriche, materie pratiche, tanti anni di studi molto intensi. E successivamente inizi la tua carriera artistica come cantautore. La prima domanda è molto semplice, eh? Si può vivere di sola musica all'estero facendo coincidere così passione e lavoro? Sì. Lo dico con una sorta di amarezza, perché in Italia è più difficile, ma si può, nel senso che in Belgio, in Francia, in tanti paesi europei esistono addirittura dei sussidi che permettono ai musicisti che non hanno concerti tutti i giorni di poter vivere. E il tuo primo disco jazz, tra l'altro, è autoprodotto ma finanziato con un sussidio dello Stato belga. Tu, che sei italiano, come ottieni questo sussidio, ma soprattutto come arrivi a produrre questo primo disco? Riconosciuto come artista di Bruxelles, artista belga. In seguito a questo riconoscimento ho fatto una domanda per ottenere un sostegno a questa autoproduzione. Questo sostegno è arrivato e con questo sostegno ho finanziato tutto il mio disco, pagato i musicisti, la stampa e così via. È stata una grande, grandissima sorpresa. Stampa che, con tua enorme sorpresa, comincia fin da subito a promuovere il tuo disco. La pagina culturale de Les Soirs, il più importante quotidiano francofono, ti dedica addirittura ampio spazio. La radio nazionale belga parla di te. In Italia sarebbe stato anche solo ipotizzabile? Non so se in Italia sarebbe stato ipotizzabile. Io so che ho proceduto ad una promozione del disco fatta da me, spedendo CD e mandando email. Da queste email sono arrivate delle risposte, senza avere contatti, senza avere spinte, senza avere l'amico dell'amico, senza avere il conoscente politico, risposte che mi hanno impressionato, tanto che, come hai appena detto, ho avuto la prima pagina delle Soir Culture, che sarebbe come l'inserto culturale del Corriere della Sera. Mentre in Italia tu scrivi a giovanitalenti@radio24.it, esiste un sistema granitico bloccato di controllo capillare delle radio da parte delle major discografiche, un sovraffollamento accompagnato da una quasi totale chiusura al mondo esterno, tanto che tu scrivi numerose email, diciamo, alle case discografiche, la risposta è praticamente nulla, o meglio, forse neppure le leggono. Io noto che comunque c'è una indifferenza verso gli outsider, verso chi propone qualcosa. Il problema è che questa cosa non viene nemmeno ascoltata, io ho la sensazione. Questa è la cosa più triste, questo è tristissimo, perché denota una chiusura enorme. È finita la guerra, ora che dal cielo non scenderà più pioggia di lacrime in terra. Con il tuo primo disco jazz tu giri il mondo, dopodiché comincia a nascere in te l'esigenza di non comporre più solo musica ma anche testi, e qui prende forma un progetto di canzone italiana. Un singolo lo stiamo proprio ascoltando. Torna l'idea dell'avventura. Raccontaci allora meglio questo progetto e questa avventura in musica. Allora, questo progetto di canzone nasce quasi per caso, dopo che ero stato iscritto da un conoscente ad un concorso italiano di canzone d'autore, al quale non avevo intenzione di partecipare. Comunque vado a Biella in un importante concorso di musica indipendente, entro come chitarrista ed esco fuori come cantante. Ho vinto questo concorso, sono arrivato secondo, e questo mi ha dato la forza e l'idea di andare avanti in questa direzione, continuare a scrivere, continuare a produrre un disco di canzoni italiane da proporre in Italia, con l'idea di proporlo poi anche in Belgio o in Francia. E nasce quindi per questa produzione quella che ho chiamato un'avventura in musica, ovvero la proposta alle persone che mi ascoltano, che apprezzano la mia musica, di partecipare con me alla produzione di questo disco. E sono centinaia le persone che hanno già risposto, vero? Sono per ora un centinaio, io spero che aumenteranno. È meno di un anno che abbiamo iniziato questa avventura in musica, ma sono successe tante cose belle. Abbiamo scelto insieme il singolo Scendo Pedalando, con il quale siamo in promozione in Italia, abbiamo lavorato insieme al videoclip. Se chi ci ascolta andrà su YouTube a guardare il videoclip, si accorgerà che ci sono degli attori non professionisti che sono appunto i finanziatori del progetto stesso. A 10 anni di distanza dalla tua espatrio, sei soddisfatto delle scelte fatte, di essere partito e di aver lasciato tutto, ma come ammetti nelle tue canzoni si sente amaro il tema del ritorno, delle radici, del sud. Cosa ti manca dell'Italia? Cosa avrebbe reso possibile una tua permanenza? Cosa avrebbe dovuto essere e non è stato? Io alla fine sono partito senza la consapevolezza che questa sarebbe stata una scelta definitiva. Io sono assolutamente soddisfatto di questa mia cosa, nonostante ci sia poi nei miei pensieri una malinconia, una nostalgia, un richiamo alle radici che non va via. Giacomo, oggi la domanda di rito si adegua alla giornata di festa. Cosa dovrebbe portare Babbo Natale a questa Italia e ai suoi giovani di talento? All'Italia Italia, io direi serenità, vista le attualità di questo periodo e la confusione nella quale l'Italia sta vivendo. Per quanto riguarda l'apertura ai giovani talenti, io regalerei all'Italia un po' di dinamismo e apertura verso il nuovo. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata natalizia parliamo della vicenda di Giacomo Lariccia, 35enne chitarrista e cantautore che dal Belgio ha deciso di portare la sua musica tutta italiana in tour per il continente. Romano, una laurea in scienza della comunicazione alle spalle, Giacomo si è trasferito a Bruxelles 10 anni fa per studiare jazz al conservatorio e inseguire così la sua passione artistica. In pochi anni Giacomo ha avviato la sua carriera con un primo disco jazz che ha riscosso un buon successo in Belgio prima di intraprendere il progetto Un'avventura in musica, iniziativa artistica che nasce dal basso, finanziata da centinaia di persone online. Un progetto soprattutto di musica italiana che prova ad abbattere le barriere che troppo spesso impediscono ai giovani outsider di penetrare il nostro mercato musicale. E ci raggiunge ora in linea Olen Cesari, anche lui 35enne e pure lui musicista, sebbene in un settore diverso da quello di Giacomo. Olen è infatti un violinista di successo, nonché proprietario di una propria etichetta discografica. Buon Natale, Olen! Ciao a tutti e buon Natale. Anche la tua storia è per molti versi eccezionale, tra poco ce la racconterai. La prima cosa che mi ha colpito leggendola è però il trade union che ti accomuna con Giacomo. Tu sei violinista, lui cantautore, entrambi però amate portare il vostro pubblico in mondi lontani, con un viaggio immaginario. Poiché Giovani Talenti è anche una trasmissione che racconta in un certo senso dei viaggi, la mia domanda è: la commercializzazione della musica moderna ha forse tolto un po' di questa magia, forse anche onirica, in grado di far sognare, e giovani promesse come voi la possono riportare, questa magia di viaggio, di mondi lontani? Io credo invece che la tecnologia di oggi può fare questa cosa molto bene. Io credo nell'era digitale, sono un fan dell'era digitale e credo che i tools che abbiamo in questo momento, tipo iTunes, tipo Amazon, questo tipo di contenitori multimediali internazionali, riescano a fare questa cosa. Olen, il tuo percorso è per certi versi simile a quello di Giacomo. Tu dall'Albania sei emigrato in Italia per trovare fortuna, lui dall'Italia è dovuto andare in Belgio. Raccontaci allora in breve la tua storia e i motivi di questa emigrazione. In Italia io sono venuto a studiare, come diceva anche Giacomo prima, a un certo punto questo diploma benedetto serve, no? E quindi insomma uno va alla ricerca. Io mi ero già diplomato in Albania, sono venuto in Italia a diplomarmi un'altra volta, dopodiché sono fuggito dall'Italia verso l'Austria per prendere un altro diploma. Perché fuggito? Fuggito perché intanto avevo già preso il diploma in Italia, quindi andavo alla ricerca di un altro diploma. Poi invece mi sono reso conto che amavo vivere qui, con tutti i casini che c'erano in corso al tempo, perché parliamo degli anni 90. Io ero appena arrivato dall'Albania, all'epoca la gente era appena riuscita a uscire da un sistema che era il sistema comunista, quindi figurati, c'era un po' di casino all'epoca. E poi dopodiché sono andato in America, una volta vissuta anche lì l'esperienza americana sono rientrato a Roma. Olen, tu sei arrivato nell'89 in Italia, giovanissimo, in pochi anni ti sei affermato, ovviamente anche poi facendo ulteriore esperienza all'estero, hai vinto numerosi concorsi. La domanda però è: sarebbe ancora possibile oggi, in qualche modo, per un outsider, come eri tu all'epoca, affermarsi qui? Perché alla fine sono tanti gli artisti italiani che emigrano, cosa ne pensi? C'è tanta concorrenza, bisogna cavalcare nel modo giusto, secondo me, per poter portare a casa un risultato, perché comunque c'è tanta concorrenza, ci sono come 60 milioni di abitanti. Cioè in Belgio è già diverso, capito? Sono 10 milioni, sono 6 volte meno, però già qui in Italia c'è di più. All'estero come funziona in fatto di valorizzazione dei giovani talenti musicali? Cioè c'è un mercato è più aperto? La Francia e il Belgio hanno degli aiuti che qua non ci sono, questo si può dire tranquillamente. Per esempio ci sono delle regole lì che qua non esistono, come diceva anche Giacomo prima, per quanto riguarda il mercato tipo la radio, no? Là sono obbligati a passare dei brani che sono tipo il 60%, 70% dei brani del paese, cioè francesi, sarebbe impensabile, in Italia non esiste. E ascoltare la radio senti il 70% dei brani in musica italiana è impensabile, è diverso qua. E in fatto di mercato è più aperto, cioè se tu da fuori contatti delle major riesci a trovare canali. Giacomo prima denunciava la difficoltà proprio di accesso, tu cosa dici? Comparando soprattutto Italia estero. L'accesso non c'è proprio in Italia, giusta cosa, capito? Tant'è che io mi sono dovuto aprire la mia. E infatti è facile aprire una propria etichetta discografica indipendente, tu hai aperto la Olen Art in un mercato poi dominato da case discografiche molto grosse. È facile quanto è facile aprire una società, insomma devi mettere un budget, devi pianificarla, e non è un problema se è facile aprire una società o no, è difficile poi gestire le cose che vuoi fare, gli investimenti, le cose. Infatti trovo geniale l'idea di Giacomo per il suo investimento con 100 investitori, capisci? È fighissimo, è bellissimo. Come selezioni gli artisti da produrre? Punti su giovani di talento? E in questo senso com'è il serbatoio italiano, diciamo? Io l'ho fatto per un paio di artisti dal 2004 fino al 2010, ho prodotto degli artisti italiani. È difficile perché poi alla fine vai a scontrarti, no, ma non parlo a livello di artisti, parlo a livello poi di mercato, di percorsi da fare per promuovere, è difficile, tant'è che a un certo punto ho smesso di fare il produttore degli altri e ho fatto il mio album che è uscito neanche 3 settimane fa. Unexpected. Perfetto. Olen, in bocca al lupo anche per il tuo primo album. Io ti saluto e ti auguro ancora buon Natale. E Giacomo, domanda di rito e domanda anche in questo caso però un po' travestita da Natale, in versione natalizia. Il tuo regalo di Natale allora per i giovani di talento, in particolare per i nostri ascoltatori, e cioè il consiglio per chi oggi in Italia si trova in difficoltà, restare o emigrare? Io credo che il consiglio più importante che posso dare è quello di ai giovani che riflettono su cosa fare nella vita, è quello di seguire i propri sogni anche quando questi portano lontano. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano della nuova immigrazione. Oggi, come ogni fine mese, visitiamo una sezione locale di Italians Online, la più grande comunità virtuale non di espatriati italiani. Restiamo in atmosfera natalizia, trasferendoci in una delle città più invernali d'Europa, Antonino Briguglio, amministratore di IOL Vienna. Siamo quasi 600 utenti, 600 sono quelli realmente attivi che almeno negli ultimi 2 mesi hanno scritto qualcosa. La cosa bella della sezione di Vienna è che c'è tutta una parte dove chi appena arriva può chiedere informazioni e quindi non solo chi appena arriva chiede informazioni, lavoro, burocrazia, permessi di soggiorno, abitazione, affitto, ma c'è un sacco di gente che vuole venire, c'è un sacco di gente che vuole in realtà andare via dall'Italia, sono in realtà 2 o 3 persone che stanno magari in Francia o già all'estero, in Germania o insomma intorno all'Europa, che vogliono dalla Francia o dalla Germania spostarsi in Austria. La maggior parte sono italiani che per motivi, maggior parte di lavoro, ben pochi per motivi affettivi, chiedono a noi informazioni per poter venire, perché non ce la fanno più a stare in Italia, perché vogliono... Arriviamo al punto. Che tipo di profilo hanno questi nuovi emigranti giovani che vengono a Vienna? Profili sono di 2 o 3 tipi. C'è il primo che parte perché sa già cosa fare, il migrante medio, questa è la maggior parte, ha mandato uno dei tanti curriculum all'estero, viene preso su base meritocratica perché non conosce nessuno, viene, parte, c'è un contratto di lavoro, normalmente sono lavori ad alta remunerazione, quindi ricerca da postdoc o come lecturer o professore associato, qualcun altro lavora per esempio in compagnie petrolifere che sono venute qua in Austria e quindi si è spostato dall'Italia per venire quassù, un altro tipo di persona si sposta per motivi affettivi, quindi il partner o lavora in Austria o è austriaco e quindi si è spostato ed ha trovato però nel giro di poco tempo un lavoro anche lui. Terzo tipo di persona è quello un po' più raro però consistente, parte senza sapere, parte perché vuole semplicemente lasciare l'Italia e vuole venire quassù alla ricerca di qualcosa. Perché questa voglia di fuga dall'Italia? Perché dipende che cosa si vuole fare. In Italia, nella mia esperienza universitaria, ho girato parecchie università, come veniamo preparati noi in Italia non viene preparato nessuno. Ed è per questo, per quest'alta preparazione, per questa grossa voglia che c'è di studiare e di imparare, che c'è ancora in Italia, che l'italiano ha grandi possibilità di andare all'estero. In Italia non può restare. Se vuole fare ricerca, in Italia non può fare ricerca, non ha i mezzi. Fuori può farlo e fuori viene preso perché ha questa grande conoscenza e questa grande abilità nel voler imparare. In Italia noi abbiamo dottorandi che lavorano gratuitamente, qui all'estero non si immagina una cosa del genere, quindi avere un dottorando che ama il suo lavoro perché lo fa gratuitamente è per una persona all'estero una grandissima scoperta. A Vienna parliamo solo di ricercatori o ci sono anche altre professioni richieste? Sono sempre più richieste figure di vario tipo, dall'insegnante di italiano al lettore, a colui che fa magari anche dalle ripetizioni semplici fino a valori di alto livello. Tutte le caratteristiche che ha un italiano medio, sia per la moda, per la cultura, per l'arte, sono qui estremamente richieste. È un'emigrazione di alto livello? Sì. Per quanto riguarda le attività di IOL Vienna? Normalmente si fanno grosse mangiate, perché ovviamente l'Italia si vede sempre intorno al tavolo, e si fanno organizzazioni di eventi un po' più culturali, si visita un museo, si visita una galleria, si visitano dei mercatini di Natale fuori dalla città. Adesso siamo in periodo natalizio, quindi abbiamo 2 eventi dei mercatini di Natale nei castelli intorno a Vienna. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net, sezione Vienna.